You're ready for some jandy? Occhi lucidi insieme alle luci di questa città. Illuminano il mondo, dimmi la verità. Il tuo sguardo è privo di serenità. Quante ne abbiamo viste? I miei occhi sono anche tuoi. Quindi se piangerò tu mi rimpiangerai. Non te ne accorgi di come ti guardo, perché non comprendi ogni singolo sguardo. Dentro tuo viso c'è l'infinito, dietro i tuoi passi c'è il paradiso. Abbiamo un sogno identico, cambia la prospettiva. Entrambi sul palco, tuo corpo è perfetto, come Ronaldo che segna di tacco. Dolce perfetta, come un bracciale di perla, come sta musica che ci accomuna. Come Parigi con dietro la luna, come la fiamma che accende la legna, come il ricordo che sveglia Superga. Come una vita non infinita, ma vissuta fino all'ultima riga. Fino alla fine del tempo, fino alla fine dei giorni. Questa notte è un inferno, fino a quando non torni. Perché siamo il suono che sveglia l'amore. Distanti incompleti tra le mie parole. I tuoi passi fanno scintille tra loro. Mentre tu balli lo stereo si inchina da solo. Vorrei capirti ma non posso farlo. Comprendi ciò che sto dicendo? In fondo sai, te l'ho promesso. Questa canzone non l'ho scritta per me, nemmeno per te. L'ho scritta perché non serve ogni volta sapere un perché. You're listening to Jandy. Sentire l'assenza di un bacio che dura in eterno, ed il suo fondamento di cederne uno e volerne altri cento. Siamo cenere al vento che incastra il suo essere nulla, nelle ali di un angelo che col silenzio si culla. Negli anni sognando negli occhi di un'altra, una storia da vivere senza scadenza. Guarda questo cielo immenso, il tempo se mi guardi lento, quest'istante eterno. Reggimi lo sguardo che sta per cadere in basso. Scrivo la lavagna, sbaglio, nella vita vivo e sbaglio. L'uomo è al centro del mondo, errata affermazione. Lei è al centro del mio, dov'è l'inquisizione? Fino alla fine del tempo, fino alla fine dei giorni. Questa notte è un inferno, fino a quando non torni. Perché siamo il suono che sveglia l'amore. Distanti incompleti tra le mie parole. I tuoi passi fanno scintille tra loro. Mentre tu balli lo stereo si inchina da solo. Da solo, da solo, da solo, da solo, da solo, da solo, da solo, da solo, da solo, da solo. Fine del tempo, fino alla fine dei giorni. Questa notte è un inferno, fino a quando non torni. Perché siamo il suono che sveglia l'amore. Distanti incompleti tra le mie parole. I tuoi passi fanno scintille tra loro. Mentre tu balli lo stereo si inchina da solo.